Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, vi stavo aspettando insieme a Filippa Oreggi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione e per voi abbiamo preparato il nostro sommario. Artrite reumatoide, dai metodi migliori per diagnosticare la malattia alle opzioni più efficaci per la cura. La ricerca clinica punta alla trasparenza. In auto con lo yoga per combattere lo stress. Dolore, gonfiore, rigidità. Questi sono i sintomi di una malattia che interessa le piccole e le grandi articolazioni. Si chiama artrite reumatoide, nulla a che vedere con i reumatismi né con l'artrosi. Predilige le donne, ma non risparmia gli uomini. Non guarisce, ma si può curare e direi anche bene, ad una condizione che sia diagnosticata precocemente. Il tempo è vita. 800 24 0024 se volete parlarne con noi. I messaggi, come sempre, al 349 238 6666. Vi presento l'ospite di oggi, che sarà in nostra compagnia sino a mezzogiorno, il professor Montecucco, direttore della clinica di reumatologia dell'Università di Pavia, al Policlinico San Matteo, e presidente della Società Italiana di Reumatologia. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Professore, se ne parla poco, ma in realtà l'artrite reumatoide, direi, ha tutti i numeri per far parlare di sé e per giustificare una maggiore informazione riguardo ai sintomi iniziali, spesso trascurati, ma l'informazione deve anche parlare delle terapie che oggi permettono a chi soffre di questa malattia di avere una qualità di vita migliore rispetto al passato. Professore. Sì, per quanto riguarda i numeri, certamente la quantità di pazienti stimata in Italia affetta da artrite reumatoide è tra le 300 e le 400 mila persone, sì. Quindi una quota importante di popolazione. Questa malattia è una malattia che ha, per questi numeri e per l'handicap che è in grado di portare, se non adeguatamente curata, una rilevanza sociale molto molto importante, e questo è un motivo in più per fare una campagna di informazione circa le possibilità di cure che non solo possono essere fatte, ma devono essere fatte per evitare che la malattia porti a una invalidità permanente. Professore, parliamo degli aggettivi con cui questa malattia viene descritta. Si dice una patologia infiammatoria. Sì, è una patologia infiammatoria perché è causata da un attacco, sì, del nostro organismo alle articolazioni, creando una un'infiammazione. L'infiammazione è l'arrivo in una sede che deve essere attaccata di cellule apposite che servono appunto a creare una risposta di barriera che poi finisce con il distruggere il tessuto anche o ledere il tessuto in cui si forma. Questa forma di infiammazione è qualcosa di paragonabile ad un incendio di una casa, sì, per esempio, perché è un qualcosa di rapido e di molto violento, mentre il concetto di degenerazione, che è proprio per esempio dell'artrosi, è un concetto invece, non so, di infiltrazione d'acqua, di qualche cosa che che decade progressivamente, molto più lento. Ecco, il concetto di infiammazione è un qualche cosa che porta rapidamente a un disastro. Professore, questo esempio è veramente illuminante. Andrei all'altro aggettivo, cronica, un termine che per molti suona come una condanna, perché è a vita, no? L'artrite reumatoide. L'artrite reumatoide è a vita nell'80% dei casi. Ci sono un 20% dei casi fortunati in cui in pratica la malattia riesce a spegnersi. Sì. E quindi per l'80% è una compagna di vita. Ovviamente questo non significa nulla, perché anche l'ipertensione è una malattia cronica, anche l'ipercolesterolemia è uno stato cronico, come l'ipertensione e l'ipercolesterolemia anche l'artrite reumatoide va trattata in modo adeguato per evitare che porti conseguenze, così come l'ipertensione e l'ipercolesterolemia portano conseguenze cardiovascolari, così l'artrite reumatoide può portare conseguenze nel tempo sia di disabilità e anche cardiovascolari, e quindi è importante curarla per prevenire queste situazioni. Ovviamente la cura va continuata nel tempo. Certo, lette in questo modo l'artrite reumatoide, soprattutto anche alla luce delle nuove terapie, fa meno paura, professor Montecucco? L'artrite reumatoide fa meno paura perché oggi abbiamo molte, molte armi a disposizione, ma deve fare paura perché le persone devono convincersi che la malattia resta molto grave se non si curano adeguatamente, e quindi devono evitare di correre il rischio di essere trattati tardivamente. C'è un altro aggettivo che aiuta a capire la natura di questa malattia: autoimmune. Professore, significa che il sistema immunitario si sbaglia e si scatena l'attacco contro parti del nostro organismo che sente come estranee, è così? Sì, il sistema immunitario è una macchina estremamente complessa che parte da un presupposto, il riconoscimento del diverso da sé, e tutto quello che è diverso da sé lo attacca. Sì. È ovvio che questo è il sistema per difendersi dai germi, dai virus, dai batteri che sono diversi da noi, quindi vengono attaccati. Il sistema è estremamente sofisticato e quindi può andare incontro a delle cattive regolazioni. Una di queste possibili cattive regolazioni è che l'organismo non riconosca come estranei parti o tutto il nostro organismo, o l'intero organismo, e quindi lo attacca, come nel caso dell'artrite reumatoide, metta conto che ci avessero trapiantato le articolazioni di un'altra persona e il nostro sistema immunitario attacca, rigetta le nostre proprie articolazioni. Tra poco parleremo, descriveremo con attenzione i sintomi: dolore, gonfiore, rigidità articolari. Sono disturbi che sono frequenti e quindi possono trovare altre giustificazioni. Spesso chi li avverte non ci fa caso, non ne parla con il medico, ma se questi sintomi assumono delle caratteristiche particolari diventano sospette. 800 24 0024, questo è il nostro numero verde. Il professor Montecucco rimane con noi sino a mezzogiorno. I messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Imparare a prendersi cura della vista giocando è quello che ha insegnato ai bambini delle scuole elementari la campagna Apri gli occhi, organizzata dall'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità, che si è conclusa con grande successo di pubblico, direi, nei giorni scorsi. Allora, commentiamo e festeggiamo come radio ufficiale degli ipovedenti e non vedenti i risultati della campagna con il professor Filippo Cruciani, oculista dell'Università La Sapienza e consulente scientifico dell'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Professore, la campagna Apri gli occhi ha raggiunto in questa quarta edizione 64.000 bambini e ha avuto risposte straordinarie. I piccoli sono davvero grandi nel recepire messaggi di prevenzione. Sì, è stato un successo incredibile, al di là di ogni nostra attesa. E noi siamo felicissimi di questa risposta, proprio perché il seme della prevenzione deve essere proprio gettato nei bambini e per prevenire poi le malattie del domani. Professor Cruciani, allora vuole aiutare anche noi genitori a prenderci cura della vista dei nostri bambini? Beh, il ruolo dei genitori è fondamentale, proprio perché il bambino non ha gli elementi per accusare alcuni disturbi di cui soffre, e certamente non si può accorgere per esempio di un difetto di vista. Il genitore invece, osservando il suo bambino, può notare delle cose e le segnalo brevemente. Le cose più importanti sono la presenza per esempio di segni infiammatori, la blefarite ad esempio, la blefarite iperemica, che è l'arrossamento del bordo palpebrale, proprio dove si attaccano le ciglia. Sì. La presenza anche a questo livello di un materiale furfuraceo, ecco, sono tutti elementi che depongono per la presenza di un difetto di vista, proprio perché si crea un affaticamento nella visione. Quindi osserviamo gli occhi dei nostri bambini, ma professore, possiamo anche osservare i nostri bambini bambini quando guardano il mondo. Certo. E bisogna stare molto attenti, per esempio, ecco, quando il bambino guarda la televisione, se tende ad avvicinarsi, ma non solo, bisogna notare anche se il bambino assume degli atteggiamenti o delle posture viziate. Ad esempio? Il fatto che osservando attentamente la televisione abbassa il mento, china il capo sulla spalla, sono tutti elementi che depongono per un difetto di vista, magari per un astigmatismo. Osserviamoli anche mentre giocano, disegnano, scrivono, leggono. Certo, soprattutto nell'attività da vicino, perché il difetto principale nei bambini è proprio l'ipermetropia e quindi quando si applicano da vicino fanno uno sforzo superiore alla norma e quindi in quel momento loro accusano una facile stancabilità, accusano atteggiamenti, posture viziate, si distraggono facilmente. Professore, allora in questo caso è meglio rivolgersi all'oculista. Come gli APB ci battiamo da sempre perché ci sia una visita obbligatoria non solo alla nascita ma anche al terzo anno di vita, quando l'organo visivo si è già formato e in quel momento noi possiamo individuare qualsiasi difetto di vista o qualsiasi problema patologico nel bambino. Ricordo il numero verde della IAPB sempre a vostra disposizione, sempre un oculista pronto a rispondere alle vostre domande, 800 06 8506. Professor Cruciani, la saluto, la ringrazio, buona giornata. Grazie e buona giornata a tutti. Pronto soccorso. Siamo tornati al tema del giorno, parliamo di artrite reumatoide, una malattia che colpisce le piccole e le grandi articolazioni, provoca dolore, difficoltà di movimento, tumefazione, rigidità. È una malattia, come ci ha anticipato il professor Montecucco, che se non viene trattata in modo adeguato trasforma la vita di chi ne soffre in un vero percorso d'ostacoli, come dimostra tra l'altro una recente ricerca del Censis, che ha proprio sottolineato tutte le fatiche fisiche ed emotive che segnano la vita dei pazienti. Professor Montecucco, ogni paziente ha una storia personale, ma abbiamo già anticipato che la tempestività della diagnosi fa davvero la differenza. Perché, professore? Perché la malattia è più sensibile alle cure nei primi mesi dall'esordio e perché la malattia tende a rapidamente a distruggere le articolazioni. E proprio quell'incendio di cui lei parlava. Sì, esattamente. Allora lei capisce che in un incendio intervenire alle prime fiamme è un conto. Certo. E intervenire quando la casa ha preso fuoco completamente significa avere comunque, magari riuscire a spegnere l'incendio ma non avere più la casa. È logico. E quindi più tardi si interviene e più la malattia ha fatto dei danni che sono irreversibili e dai quali non si riesce a tornare indietro. Quindi la tempestività è fondamentale. Professore, io tornerei ai sintomi perché sono sintomi generici, ma lei ci aiuta a capire quando possono diventare sospetti. Abbiamo detto il gonfiore, ma concretamente che cosa dobbiamo osservare? Che tipo di gonfiore è quello sospetto? Perché già molti ascoltatori mi stanno scrivendo al 349-238-6666, tra poco passeremo le domande all'824-0024, ma mi chiedono: ho la luce gonfio, mi si gonfia il mignolo, ho un ginocchio gonfio. Ecco, c'è gonfiore e gonfiore. Quale è quello di cui parliamo oggi? Il vero problema della diagnosi precoce dell'artrite reumatoide è questo, è che le condizioni che possono dare del dolore e del gonfiore alle articolazioni sono moltissime. Sì. E molte di queste sono anche patologie di non assoluta gravità e che si curano facilmente e non particolarmente severe. E quindi riconoscere l'artrite nell'ambito di queste condizioni è fondamentale. Le caratteristiche del gonfiore, delle articolazioni, dell'artrite, è il gonfiore alle mani e ai polsi e alle mani delle articolazioni che si chiamano metacarpofalangee, che sono quelle alla radice delle dita, sì, alla base delle dita, e delle interfalangee prossimali, cioè che sono quelle a metà delle dita. Sì. Queste, il gonfiore non con consistenza di osso, cioè non la deformità ossea, ma un gonfiore molle, un gonfiore dei tessuti, sì, molli da infiammazione, Questo è un sintomo importantissimo, perché vuol dire che c'è un'infiammazione all'interno dell'articolazione. Poi magari è un'infiammazione diversa dall'artrite reumatoide, ma comunque è un'infiammazione, e quindi è un sintomo che deve far andare il paziente dal medico e che deve suggerire al medico di fare degli esami, o di mandarlo o meglio di mandarlo da un reumatologo. L'abbiamo ben localizzato questo gonfiore, lo ripetiamo, è proprio alla base delle dita, vero professore? Ai polsi, alla base delle dita e alle falangi intermedie, all'articolazione delle falangi intermedie. Andiamo da Gianfranco, che ci chiama da Reggio Emilia, e poi nel corso della trasmissione tra poco passeremo in rassegna gli altri sintomi, ma naturalmente parleremo di esami che permettono di arrivare alla diagnosi e di cure. Gianfranco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Siamo pronti? Pronto? Sì, siamo mi pronti. Sente? Noi la sentiamo bene, grazie. Okay. Bene. Ci può fare la domanda? Sì. Sì. Allora, io ho telefonato perché da qualche anno ho un rigonfiamento delle dita nell'ultima, in corrispondenza dell'ultima falange, sull'osso dell'ultima falange. Sembrano due tozzettini, due noccioline, diciamo, che sono, si presentano sul mignolo, sull'anulare e sulle altre dita, tranne che il pollice. Sì. Tutti gli altri sono interessati. L'anulare sinistro, quello dove porto l'anello, l'ultima falange mi si piega internamente di circa 15-16 gradi, forse anche di più, piegata verso l'interno. Professor Montecucco, questi i sintomi che ci descrive Gianfranco sono molto diversi da quelli che lei ha descritto prima. Sono totalmente diversi. Quindi? E giustificano il fatto della mia insistenza sulla localizzazione del gonfiore. Questa è una localizzazione alle falangi distali, all'ultima articolazione delle dita, che è frequentissimamente colpita in caso di artrosi. Lei pensi che più del 30% delle persone con più di 60 anni hanno questo tipo di disturbo da artrosi. Certo. Quindi è una cosa assolutamente diversa. Di solito è geneticamente determinata, cioè questo tipo di artrosi alle dita che ha colpito l'ascoltatore è di solito familiare, nei familiari si trovano altri casi, è molto frequente, di solito non è invalidante e quindi non ha le caratteristiche di pericolosità dell'artrite reumatoide, è tutt'altra situazione. Siamo tornati insieme, il tema di oggi è artrite reumatoide. Se volete intervenire potete comporre il nostro numero verde 824 0024. In linea con noi abbiamo il professor Montecucco, e adesso ci colleghiamo con il Mario Negri di Milano, dove è in corso un importante convegno che vede riuniti i massimi esperti per fare il punto sullo stato dell'arte della ricerca clinica. In linea con noi è il professor Silvio Garattini, direttore del Mario Negri di Milano. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, grazie. Professore, i vostri sforzi sono concentrati a rendere la ricerca clinica più trasparente e anche più a portata di paziente. Ci aiuta allora a capire come si articola il vostro lavoro e soprattutto come pensate di raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati? Sì, la ricerca clinica, oggi si celebra la giornata europea, è il modo attraverso cui possiamo stabilire se un farmaco, un trattamento, un intervento chirurgico è più utile di quello che si sta facendo. Quindi noi vogliamo che tutti gli studi clinici abbiano come fine quello di migliorare le disponibilità terapeutiche per il paziente. Al momento non è sempre così però, professore. Purtroppo non è sempre così, perché molto spesso predominano interessi commerciali e quindi gli interessi dei pazienti passano in secondo piano. Quando ad esempio si fanno degli studi in cui non si stabilisce quale è il valore aggiunto, evidentemente non si fa qualcosa per migliorare la situazione. Professore, spesso la ricerca è avvolta nel segreto. Purtroppo questo dipende dalle leggi. Noi dobbiamo lavorare, stiamo lavorando perché cambino le leggi e quindi non ci sia il segreto sulla ricerca clinica. Ci sia la registrazione di tutti i protocolli, la pubblicazione di tutti i risultati e la possibilità per tutte le persone di avere accesso ai dati. Quindi per tutte le persone significa, professor Garattini, anche le persone che non sono addette ai lavori, pazienti e non? Certamente, cioè evidentemente ci sono i ricercatori, i clinici che devono avere accesso, ma anche il pubblico, anche le organizzazioni dei pazienti, perché i pazienti si prestano generosamente, qualche volta anche con rischio, a partecipare a degli studi clinici controllati, e quindi è giusto che ricevano indietro i risultati degli esperimenti a cui si sono prestati. In fondo, professor Garattini, possiamo dire che è un loro diritto. Certamente, è un loro diritto, e la legge dovrebbe sottolineare questo diritto. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro un buon convegno e soprattutto buon lavoro. A presto. Grazie a lei. Artrite reumatoide, stiamo parlando dei sintomi sospetti. Professor Montecucco, dopo aver affrontato il gonfiore, affrontiamo la rigidità articolare. Tutti al mattino siamo un po' rigidi, ci mettiamo un po' a carburare, ma lei a che tipo di rigidità si riferisce? Esistono due tipi di rigidità in artrite reumatoide: una, ahimè, tardiva, irreversibile, cioè l'articolazione non si muove più perché è distrutta, sì. Ma esiste invece una molto più importante, che è quella iniziale, e che è una rigidità al mattino, sì. Appena alzati, ma molto più prolungata della normale rigidità a cui lei faceva riferimento. Mm. Una rigidità che dura 30, 40 minuti, un'ora, certe volte anche 2-3 ore. Il paziente nota proprio che ci vogliono 2 ore prima di compiere alcuni movimenti, tipicamente, non so, a sollevare una tapparella, ad esempio, e nelle prime 2 ore dopo il risveglio non riesce a fare questo movimento. Questa cosa è molto tipica dell'artrite in generale, dell'artrite reumatoide in particolare. Dolore, professore, qui è importante aprire una parentesi, perché lo facciamo, può essere utile rispondendo ad alcuni sms che scelgo tra quelli arrivati al 349-238-6666. Al mattino sono tutto rotto, mi fanno male le mani, le spalle, i piedi, poi passa nel giro di poco. Mi muovo e sto meglio, specie dopo la doccia calda, ma da qualche mese mi fanno male anche di notte. Attilio, 47 anni. Professore, il nostro ascoltatore parla di piedi, mani, spalle, quindi direi un dolore simmetrico che passa col movimento, ma si presenta anche di notte. Questo è un dolore sospetto, professore? Questo è un dolore sospetto. Questo è un dolore sospetto, soprattutto se la rigidità, come dicevo, che l'accompagna dura almeno mezz'ora al mattino, sì. Perché il dolore infiammatorio è un dolore che è anche a riposo e che è anche la notte, e che paradossalmente, non dico che migliori col movimento, ma certamente non peggiora col movimento, mentre il dolore da artrosi è un dolore che è peggiora se uno utilizza l'articolazione, se uno la usa. Il dolore infiammatorio è un dolore che è presente anche la notte, quindi questo tipo di dolore è un dolore sospetto. Professore, ma i sintomi di cui stiamo parlando devono essere insieme oppure possono anche essere isolati, arrivare uno alla volta? In genere sono insieme, sì. Cioè c'è il dolore con queste caratteristiche, il gonfiore e la rigidità. Perché tutto parte da quel famoso incendio. Esattamente. Ecco. Esattamente. Andrei a Matilde, che ci chiama da Grosseto. Buongiorno Matilde, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a lei. Io mi aggiungo a quello che vi ha scritto l'SMS sulla questione notturna e sì. La rigidità, però in più anche tutti i gonfiori, e in più analisi del sangue fatte con una ricerca approfondita tra Milano e Roma, e anche visita reumatologica, dove non ho niente a parte una leggera valori sballati in sistema immunitario, però mi dicono che non ho nulla. Non ha nulla, però il dolore, tutti i sintomi ci sono. Sì, Matilde, sì. Prima di chiedere al professor Montecucco di affrontare il suo caso, professor Montecucco, è frequente il caso di Matilde? Cioè sì, tutti i sintomi. È frequente. Ecco, io volevo chiedere al professor Montecucco, ci sono oggi degli esami che permettono di fare diagnosi con certezza e con rapidità in tutta sicurezza? Allora, esistono esami che però non coprono il 100% dei casi. Sì. Nel senso che esistono degli esami di laboratorio la cui positività in presenza dei sintomi che abbiamo detto dà praticamente la certezza o quasi della diagnosi, ma questi sono positivi in poco più della metà dei casi, per cui gli altri casi sono negativi per quanto riguarda gli esami, ma hanno lo stesso la malattia. Come nel caso di Matilde, che ha gli sintomi, ma gli esami non dicono nulla. Questo succede in un caso su due e quindi eventualmente se ha fatto una visita reumatologica, il reumatologo ha notato se c'era gonfiore o no, perché il paziente spesso avverte la sensazione di gonfiore, a furia di guardarsi le mani nota anche magari delle piccole diversità da una mano all'altra, ma il gonfiore percepito dal medico è quello che fa la differenza. Esistono oggi delle possibilità diagnostiche strumentali, per esempio l'ecografia in mani esperte, cioè un'ecografia fatta da un reumatologo esperto, riesce a identificare delle forme di artrite che magari sfuggono alla visita semplice. Quindi il consiglio, mi scusi, quindi a Matilde quale potrebbe essere, professore? Ma il consiglio, guardi, è sempre quello di andare da un reumatologo, perché diagnosi è comunque clinica, perché le dico, il 50% dei casi ha gli esami negativi e quindi lì è l'esperienza del clinico che fa la diagnosi. Se il clinico ha il dubbio, fa fare un'ecografia. Noi le facciamo routinariamente, ma non c'è, in alcuni casi non sarebbero neanche indispensabili, perché ci si arriva tranquillamente con la visita. Io vi voglio presentare Cristina, che è in linea con noi. Cristina, benvenuta, ciao. Grazie, ciao. Cristina interviene nella nostra trasmissione per raccontare la sua esperienza affetta da artrite reumatoide. Ti racconterà un po' la sua storia, quando è arrivata alla diagnosi e come è cambiata la sua vita. Ecco, ci siamo tornati insieme. Cristina, quando hai ricevuto la diagnosi di artrite reumatoide? Quanti anni fa e quanti anni avevi? Allora, 15 anni fa circa. Sì. Ho iniziato ad avere un ginocchio dolorante sempre gonfio. Andava, veniva, io tra l'altro lavoravo in un ristorante, quindi facevo anche un lavoro in cui si sta spesso in piedi, abbastanza faticoso. Sono andata da un ortopedico e mi hanno detto che stranamente, avevo io solo 36 anni, questo ginocchio si presentava artrosico e probabilmente insomma, non si capiva bene cos'era. Comunque il ginocchio ha continuato a farmi male, a essere gonfio per mesi e alla fine ho deciso di fare un'artrodesi in anestesia locale. Dopo quest'artrodesi, 2-3 giorni in ospedale, sono tornata a casa. Mi sono svegliata una mattina e non mi sono riuscita più ad alzare dal letto. La famosa rigidità mattutina, ero praticamente bloccata. Sì. Bloccata dal dolore e dalla rigidità. Il mio medico di base è venuto a casa, mi ha visto e ha detto: facciamo le analisi, ma credo che si tratti di artrite reumatoide. E lì è iniziata l'avventura. Le mie analisi erano piuttosto chiare, perché avevo una VES molto alta, eccetera, e quindi ho iniziato a curarmi per l'artrite reumatoide. Professor Montecucco, la storia di Cristina è una storia comune, una storia del passato? Si rischia ancora adesso di aspettare tanto tempo per arrivare ad una diagnosi? Sì. Si rischia di tanto tempo. La storia di Cristina non è tipicissima, perché l'esordio con una monoartrite di ginocchio non è caratteristico dell'artrite reumatoide. Può succedere, ma non è la regola. Perché di solito le ginocchia sono tutte e due simmetriche? Di solito sono tutte e due, di solito sono accompagnate anche dall'interessamento o delle mani o dei piedi. Sì. Però può succedere e questo la succede. Prova è di... Ma in un ginocchio gonfio, con avversamento, con liquido all'interno, in una persona di 36 anni, il primo sospetto deve essere quello di un'artrite e quindi comunque deve iniziare da subito un percorso diagnostico da questo punto di vista. Ecco, ricordiamo che quando voi ci sono le parole che finiscono in ite, si pensa subito a un'infiammazione, quindi molto diverso dall'artrosi. Andiamo a sentire Marco da Parma, che lasciamo intervenire, 824 0024, poi continuiamo con Cristina. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Io ho una domanda, non so se è rilevante, ma l'attività fisica può prevenire, se fatta prima del manifestarsi della malattia, in qualche modo è totalmente inutile, addirittura dannosa? Grazie. Grazie Marco. Professor Montecucco, l'attività fisica, abbiamo detto tante volte, aiuta a stare bene, ma in qualche modo può aiutare a prevenire questa malattia? No. Mentre le persone invece che ne soffrono, Marco ci dà lo spunto, come Cristina. Cristina, tu fai attività fisica? Attualmente sì, faccio Pilates 2 volte a settimana, che trovo veramente estremamente utile. Vado in bicicletta e cerco di camminare sempre. Quando stavo male, prima di trovare, diciamo, i farmaci giusti, era impossibile fare attività fisica, sinceramente, ero troppo dolorante. Professor Montecucco, l'attività fisica nei pazienti affetti da artrite reumatoide è terapeutica, fa bene? È consigliata? L'attività fisica va commisurata alla possibilità di farla e va sempre sospesa in presenza di dolore. Nel senso che qualsiasi movimento che causa dolore non va ripetuto e non va reiterato, perché nella fase di acuzie, nella fase di infiammazione, quando la malattia è attiva, il riposo è benefico. È ovvio che poi, quando è possibile riprendere l'attività, questa va ripresa, perché altrimenti l'inattività porta a ipotrofia muscolare, porta a rigidità delle articolazioni e via discorrendo. Ma la cosa non bisogna, l'errore che alcuni fanno è quello che in fase di attività di malattia di sforzarsi, nonostante il dolore, ad essere attivi. Questo peggiora lo stato delle articolazioni e aumenta l'infiammazione. Professore, mi faccia capire bene, però, dato che noi abbiamo detto che i sintomi spesso nella prima si concentrano nella prima parte della giornata, poi muovendosi con il tempo. Se al pomeriggio io sto bene, non ho dolori, posso fare attività fisica? Mi giova fare la camminata oppure no? Se la malattia è in fase di attività, la camminata certamente, certo. Ma un'attività fisica pesante no. Quindi anche lì bisogna distinguere. Assolutamente, ma è il nostro corpo che ce lo dice, perché se uno fa attenzione e fa i movimenti che non provocano dolore, quelli sono comunque consentiti. È una regola di assoluto buon senso e che ciascuno di noi può mettere facilmente in pratica. Certo. Perché il dolore significa che la nostra articolazione non è ancora pronta a sopportare quel carico di lavoro. Cristina, al momento della diagnosi, qual è stata la cosa che ti ha fatto più paura, più difficile da accettare? È difficile dirsi, nel senso che veramente non sapevo neanche bene di che cosa si trattasse. Sì. E quindi non sapevo neanche che cosa avrei dovuto accettare. Me ne sono accorta dopo e anche abbastanza velocemente. E devo dire che la mia artrite reumatoide è stata esplosiva e non sempre sono così. E io ho dovuto fare anche 2 interventi di protesi alle ginocchia, quindi sono stata immobilizzata per molto tempo. Io, che ero una persona molto attiva, l'immobilità è stata la cosa peggiore. Che ti ha pesato di più. Sì. Professor Montecucco, Cristina ha detto fino a quando ho trovato la terapia, quando ho trovato la terapia giusta, e poi la cosa è andata meglio, no? Adesso ci sono delle terapie a disposizione che permettono di affrontare ogni situazione, professore? Ogni situazione sì. Ogni situazione, pensavo che lei mi dicesse è troppo. Nel senso che non permettono di risolvere ogni situazione. No, certo. Ma affrontiamo ogni situazione con una risposta che è passando di farmaco in farmaco possiamo ottenere delle risposte soddisfacenti nell'80-90% dei casi, e comunque nel restante 10-20% riduciamo di molto la sofferenza delle persone. Quindi i risultati sono certamente brillanti. I tempi sono soprattutto modificati, perché adesso abbiamo a disposizione molti farmaci. Sì. Partiamo con i farmaci più tradizionali, ma nel giro di pochi mesi, se la risposta non è, non è sufficiente, non è completa, si aggiungono, si aumentano i dosaggi, si aggiungono nuovi farmaci, si cambiano i farmaci, fino a che si ottiene la risposta, in modo da ottenerla nel minor tempo possibile, per il discorso che ho fatto prima, perché più tempo si impiega ad ottenere la risposta e più si permette alla malattia di fare danno. Certo. Quindi la storia della signora è una storia che ahimè deriva anche dal fatto che 15 anni fa a disposizione avevamo molte meno armi di quante ne abbiamo oggi. Però Cristina, non sono solo i farmaci che hanno fatto la differenza, perché io immagino, tra l'altro ho letto questa bella indagine Censis che lo dimostra, ad esempio il silenzio e l'indifferenza sono i peggiori nemici dei pazienti. Per questo è importante anche sottolineare il ruolo delle associazioni di cui tu fai parte, l'ANMAR. È estremamente importante perché credo prima di tutto una malattia così poco conosciuta veramente sembra che ne soffra solo tu. Sì. E effettivamente con le associazioni dei pazienti uno si rende conto che ci sono molte altre persone nella stessa situazione. Io ho scoperto dopo anni che una persona su 10 soffre di malattia reumatica, il che è incredibile quanto poco siano conosciute. E fare rete aiuta ad affrontare la malattia? Fare rete sicuramente aiuta. Il sostegno psicologico io direi che è fondamentale. E io volevo, siamo in chiusura, approfittare di quanto ci ha raccontato Cristina per ricordarvi questa campagna di cui avevamo già parlato col professor Montecuco qualche giorno fa. Si chiama Articolazioni. È una campagna proprio dedicata al paziente, pazientocentrica se vogliamo. Per avere tutte le informazioni io vi rimando al numero verde dell'ANMAR 800 910 625. Potete anche scriverlo, telefonare al nostro centralino. Tante attenzioni per il paziente, dal supporto psicologico anche molto importante. Se volete saperne di più vi rimando al sito dell'AMMAR. Ringrazio Cristina, con un abbraccio al professor Montecucco che è stato davvero molto chiaro, lo ringrazio e lo saluto. Buona giornata a voi allora. Arrivederci. Buona giornata a chi ci ha ascoltato. Appuntamento come sempre domani dopo il GR delle 11.